Buonasera a tutti e benvenuti sulle onde di Radio Alma con la trasmissione I colori dell'anima. Sono le 21 e un minuto di lunedì 4 febbraio e oggi sono in compagnia, come sempre, di Anna Maria. Buonasera Anna Maria. Buonasera a tutti. Sono in compagnia anche di altre due ospiti, ma ve le presenterò fra un attimo. Prima volevo ricordarvi alcune informazioni pratiche che riguardano la nostra radio e la trasmissione Colori dell'Anima in modo particolare. Allora, I Colori dell'Anima è una trasmissione che va in onda in diretta ogni lunedì dalle 21 alle 22. Questa sera sono con voi quindi Rosanna e Anna Maria, però altri lunedì ci sono altri animatori che si alternano con noi. E la trasmissione poi alle volte va anche in ridiffusione, però appunto la diretta sempre ogni lunedì dalle 21 alle 22. Se ci volete telefonare. Allo 02 345 26 56. E se ci volete scrivere, i colori dell'anima chiocciola radioalma.eu. Allora, cominciamo quindi col presentare le nostre ospiti. Comincerei da. Allora, buonasera a tutti, sono Giovanna Rizzetto e sono italiana di Venezia e lavoro al Breast International Group qui a Bruxelles. Breast International Group, Big, Big, che non sì. è il Big Brother, non c'entra niente, no, c'entra appunto con la ricerca contro il cancro. E l'altra ospite? Buonasera a tutti, mi chiamo Cecilia Waldvogel, lavoro al Breast International Group come responsabile della comunicazione e sono di Lugano, Svizzera. Benissimo, sei svizzera, però appunto parli benissimo italiano. Italofona, sì. Italofona, va bene. Allora, perché ci sono queste ospiti oggi? Perché appunto, come lo potete capire dall'organizzazione per la quale lavorano, che è questo BIG, questo Breast International Group, quindi gruppo di ricerca per il cancro, diciamo contro il cancro, sono qui ovviamente per parlare delle loro attività, ma la coincidenza ha voluto, le coincidenze non vengono mai per caso, che oggi, 4 febbraio, è la giornata mondiale, la giornata contro il cancro, la giornata per combattere il cancro. Ed è una giornata che è stata stabilita appunto essere quindi una volta l'anno per fare un po' il punto della situazione su come siamo per quanto riguarda la ricerca contro questa malattia. Allora, c'è stato quindi un documento che è stato pubblicato dalla Commissione europea e che indica 11 punti che sono in effetti molto semplici e seguendo i quali possiamo, diciamo così, non dico assicurarci, ma perlomeno avere qualche garanzia in più di evitare qualsiasi forma di cancro. Per esempio, il primo punto, non fumare, il secondo, evitare l'obesità. Il terzo, intraprendere dell'attività fisica ogni giorno. Il quarto, aumentare il consumo e la varietà di frutta e verdura. Il quinto, utilizzare l'alcol, però con moderazione. Il sesto, evitare l'esposizione al sole e così via. E uno di questi punti riguarda, tra l'altro, uno di questi 11 punti, per quanto riguarda le donne che hanno oltre 50 anni, che sono caldamente invitate a partecipare a degli screening proprio che sono specifici per il tumore della mammella. Cecilia, ci vuoi dire qualche informazione in più, qualche dato sul tumore della mammella? Sì, magari è interessante ricordare che si stima che una donna su 8 attualmente è diagnosticata con il tumore al seno e che nel 2010 circa 1 milione di persone, tra l'altro di cui 10.000 uomini, sono stati diagnosticati col cancro al seno. E questo rendono questo tipo di tumore la seconda causa più comune, il secondo tipo di cancro più comune nel mondo a livello mondiale. Si stima anche, tra l'altro, che mondialmente le morte per cancro aumenteranno prima del 2030 di ben del 45%. soprattutto nelle zone in via di sviluppo. Ecco, allora, questi numeri chiaramente non è che li diamo perché vogliamo spaventare i radioascoltatori, ma perché vogliamo far capire che il problema è serio. E ovviamente non è che dobbiamo dirlo noi, penso che sia abbastanza diciamo noto a chi ci ascolta, perché molti di noi comunque o sono stati interessati personalmente o hanno avuto delle persone care interessate, quindi conoscono questa problematica dei tumori. Però diciamo in questa ora che seguirà vorremmo appunto affrontare con Giovanna e Cecilia uno degli aspetti con cui si sta affrontando questo problema proprio a livello non solo europeo ma anche internazionale. Allora, prima quindi di entrare nel vivo di questo argomento di oggi, proporrei un piccolo brano musicale e ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete all'ascolto di Radio Alma con i colori dell'anima. E questo era un brano che si chiama Piogge, eseguito da un musicista abruzzese. Scusate, io sono abruzzese, quindi sponsorizzo i musicisti della mia regione quando li conosco. Si chiama Luigi Friotto. Allora, siete all'ascolto di Radio Alma, in particolare della trasmissione I colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. E oggi stiamo parlando delle ricerche, del coordinamento delle ricerche nell'ambito del tumore al seno, con due ospiti e naturalmente con Anna Maria. Sì, ecco, io volevo dire che questo argomento ci sta particolarmente a cuore in quanto donne, perché siamo tutte più o meno suscettibili a questo argomento, per cui anche per qualcuno profano come me sono curiosa di avere qualche informazione un pochino più specifica. Torniamo quindi a parlare di questo Breast International Group, BIG, altrimenti detto, che è un gruppo di ricerca internazionale contro il tumore al seno. Dunque io leggo, perché mi danno le informazioni, che è una rete internazionale di 50 gruppi di ricerca senza scopo di lucro. Mi pare che sia la sede sia presso Bruxelles, quindi magari Cecilia, sì, vuoi dirci qualcosa di più specifico? Sì, la sede di questo gruppo di ricerca è proprio a Bruxelles, presso l'Institut Jules Bordet, è un istituto che si occupa di ricerca contro tutti i tipi di tumori. BIG, questo gruppo di ricerca, la sua missione è proprio di facilitare e di coordinare la ricerca a livello internazionale contro il cancro al seno e di mettere in contatto i propri gruppi membri con altri gruppi, con altre reti accademiche di ricerca, proprio per facilitare la loro cooperazione e il lavoro di ricerca internazionale. Che non è cosa da poco, direi. Che non è cosa da poco, è abbastanza complesso come, ecco, tipo di lavoro. Quindi questo gruppo gestisce un coordinamento, suppongo, sì, in maniera, insomma, neanche facilissimo, perché parliamo di istituti, di grossi istituti. Sì, ci sono centri, diciamo, sono situati in tutto il mondo. Noi lavoriamo insieme a gruppi che sono in Australia, in Giappone, in Argentina, in tutti i paesi, principali paesi europei, quindi è un lavoro veramente di coordinamento a livello internazionale. E quello che penso che è interessante dire è che veramente questa cooperazione internazionale oggigiorno è veramente necessaria se si vogliono veramente fare dei progressi reali nella ricerca contro il tumore, perché oggi si sa, grazie alla ricerca, che il tumore al seno non è solo un tipo di tumore, ma ce ne sono almeno 10 diversi, se non di più. E ognuno va trattato come una malattia diversa, diciamo. Differente. Il problema sta nel fatto che ogni tipo di tumore ha pochi pazienti, pochi relativamente parlando, lo hanno, e quindi per un singolo istituto di ricerca o per una singola nazione sarebbe impossibile in tempo utile studiare abbastanza pazienti. Ecco, potrebbe fare diciamo una ricerca specifica, ma non avrebbe modo di scambiare informazioni con altri, con altri istituti, suppongo. Anche quello che chiamiamo un campione di pazienti troppo limitato. per la ricerca. Quando certo. studiamo, cerchiamo di capire come funziona e perché nasce un tumore al seno, un determinato tipo specifico di tumore, serve un elevato numero di pazienti, purtroppo. E in un singolo paese sarebbe difficile trovare un numero adatto certo, di pazienti. Tutte quindi, le casistiche esatto, sarebbe difficile. Statisticamente esatto. sarebbe molto difficile, molto lungo, i tempi sarebbero molto più lunghi. Mm. Invece collaborando, i paesi collaborando insieme possono progredire nella ricerca in maniera molto più rapida. Questa è proprio l'idea che nasce alla base della creazione del gruppo. E chi ha avuto questa idea brillante di riuscire a coordinare tutta questa organizzazione? Alla base, diciamo, ci sono il presidente e il vicepresidente attuale del BIG, di questo gruppo di studi, il dottor Martin Picard e il dottor Aaron Goldisch, rispettivamente. Sono due oncologi di fama mondiale. Il dottor Picard lavora all'Institut Bordet ed è direttore del reparto di medicina interna ed è anche nonché professore all'Université Libre de Bruxelles. Il dottor Goldisch è anche un oncologo ed è direttore del reparto di medicina dell'Istituto Europeo di Oncologia a Milano, tra le altre cose. Ecco, sono diciamo due persone molto conosciute a livello mondiale e sono tutti e due nel nostro consiglio di amministrazione. Ecco, quindi sono... entrando entrando nello specifico, l'innovazione di questa organizzazione, qual è in sostanza per noi che siamo? Perché mi sembra che contribuite a... a diverse sì. cose insomma riguardo al sì, paziente. L'idea principale è proprio quella di mettere, di far lavorare gruppi di ricerca in paesi diversi, farli lavorare insieme. Questa è stata proprio l'idea di base che è venuta appunto al dottor Goldisch e al dottor Picard. E l'idea è di portare avanti dei progetti specifici di ricerca sul tumore al seno. Noi qui parliamo di tumore al seno, quindi non di altri vi occupate solo del tumore al seno. Del tumore al seno, esattamente. E con ovviamente l'obiettivo di a lungo termine è quello di aiutare i pazienti a vivere più a lungo, migliorare la loro qualità di vita e cercare appunto di fare dei progressi sulla conoscenza del tumore stesso, che appunto, come diceva Cecilia poco fa, è una malattia che si presenta in diversi non è un unico tipo di tumore. Questa è la difficoltà di capire qual è il trattamento migliore, qual è la cura più adatta per un paziente, perché ne esistono di diversi tipi che si evolvono anche in maniera diversa e quindi è molto certo. difficile, per esempio, per un medico capire, quando a una paziente viene diagnosticato un tumore al seno, capire qual è il trattamento giusto. E quindi questa cooperazione, chiamiamola cooperazione, aiuta anche a livello locale a sviluppare trattamenti, sì. insomma, terapie che siano. Il modo in cui viene fatto è proprio attraverso gli studi clinici. Poi forse ne parleremo magari più avanti. Uno studio clinico. Sì. Va bene, allora questa era un'introduzione, quindi per spiegare un po' che cos'è questo BIG, questo gruppo internazionale di ricerca per il cancro alla mammella. E ricordo anche che oggi, 4 febbraio, è la giornata mondiale dedicata alla lotta contro il cancro e appunto fra i vari diciamo punti importanti per la prevenzione c'è anche quello di ovviamente fare un buon screening di prevenzione di questo tipo di tumore, ma ovviamente ciò nonostante si tratta, come diceva Cecilia, di un tumore che purtroppo è in aumento e quindi sono molto importanti delle iniziative di questo tipo che cercano di attaccare, diciamo così, la malattia quando si manifesta. Allora, un altro brano musicale, questa volta una canzone di Mia Martini e noi ci ritroviamo fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete con noi sempre sulla frequenza 101.9 di Radio Alma. E i colori dell'anima vi ridà di nuovo il benvenuto alle 21:23 di lunedì 4 febbraio con Rosanna e Anna Maria e con le nostre ospiti con le quali stiamo parlando di BIG, Brest International Group, che è il gruppo che si occupa di ricerca, di coordinamento della ricerca contro il tumore al seno. Questo gruppo è internazionale, ma io da buona italiana vorrei sapere qual è l'organizzazione italiana che gestisce questo genere di ricerca. Certo. Tra i nostri 49 membri ce ne sono alcuni che hanno sede in Italia. Uno di questi, che è forse quello più attivo e con cui collaboriamo in maniera più efficace, diciamo che ha partecipato a parecchi dei nostri studi clinici, è il gruppo oncologico italiano di ricerca clinica, che ha sede a Parma, se non sbaglio, ed è stato creato già nel 1982 e da alcuni primari, appunto, degli ospedali di Parma e Perugia. L'attuale presidente è il dottor Rodolfo Passalacqua, e a questo gruppo, appunto, hanno aderito poi negli anni successivi un significativo numero di ospedali, soprattutto situati nel nord e nel centro di Italia. E bisogna dire che questo gruppo, il gruppo oncologico italiano di ricerca clinica, è un gruppo che non si occupa soltanto di tumore al seno, ma di tutti i tumori, quindi opera un po'. Non è specifico, non è solo specifico per il tumore al seno, ho capito. E poi ci terrei a dire che da buona italiana, come sono anch'io, che nel consiglio di amministrazione del BIG, cioè del Breast International Group, c'è il dottor Angelo Di Leo, che è un oncologo che opera è direttore dell'unità di oncologia medica Sandro Pitigliani all'ospedale di Prato in Toscana, e ricopre questa posizione dal 2003. E però bisogna anche dire che il dottor Di Leo ha anche lavorato all'Institut Jules Bordet, dove appunto il Breast International Group ha sede, qui a Bruxelles. Esatto, e ha lavorato per alcuni anni insieme appunto con il dottor Martin Picard, che è la presidente della nostra associazione, ed era appunto direttore medico di un altro gruppo che si chiama Breast e che si occupa appunto di ricerca sul tumore al seno. Ecco. Quindi. Invece qui a Bruxelles chi lavora in questa organizzazione? Allora, scusate, negli uffici del BIG, di questo gruppo di studio a Bruxelles, ci sono circa una ventina di persone che vengono da un po' tutto il mondo. Abbiamo delle persone dall'Italia, dalla Svizzera, anche dall'Australia, dei Belgi, quindi c'è un'atmosfera dall'India, è vero, un'atmosfera molto internazionale, veramente international. Sì, sì, sì, sì. E, persone anche con un background professionale, diciamo, molto diverso. Cioè, ecco, infatti immagino che sì, per riuscire a gestire un'organizzazione tale ci sia bisogno di tutti i tipi di professionalità, sì, certo. Perché non credo che sia semplice riuscire a coordinare, soprattutto a livello internazionale, un'organizzazione del genere, quindi immagino che abbiate diversi dipartimenti. Ci sono diversi dipartimenti, sì, c'è tutto quello che è, diciamo, l'amministrazione, la contabilità, le finanze, un dipartimento di legale, di informatica, un dipartimento comunicazione, raccolta fondi, e poi il grosso, diciamo, degli impiegati lavora per il dipartimento della ricerca, diciamo. E si tratta di coordinatori di progetti di ricerca che hanno spesso delle formazioni scientifiche, non sono medici per sé, ma sono persone che hanno magari studiato chimica o scienze naturali e che il loro percorso le porta. E qui vorrei anche ricordare una cosa, che questa organizzazione non è a scopo di lucro. Esatto. E quindi ecco perché vedo che avete un dipartimento per la raccolta dei fondi. Esatto, sì. Quindi importante certo ricordarlo. E io invece volevo sapere in particolare qual è il vostro lavoro. Cioè, per esempio, Giovanna, tu hai detto che sei italiana. Come mai sei venuta a finire qui a Bruxelles? Cosa ti ha portato o chi ti ha portato? Chi mi ha portato? Io appunto sono italiana, sono qui a Bruxelles da 9 anni e lavoro però al BIG da 6 anni. Uh-huh. Dunque, io sono in realtà laureata in chimica industriale, quindi ho una ho fatto degli studi, una formazione scientifica. Scientifici, uh-huh. Esatto, non necessariamente legati al campo medico. Certo. Però diciamo che quando sono arrivata appunto a Bruxelles avevo già un'esperienza di gestione di progetto diversa, non nel campo medico, ma avevo già lavorato e questa mi piaceva molto. E quando sono appunto arrivata qui a Bruxelles mi interessava continuare una professione di questo tipo, e quando ho avuto l'opportunità mi si è presentata l'opportunità di lavorare al BIG, per me era stato molto molto interessante, perché sicuramente è una gestione amministrativa di un progetto di ricerca, ma si è consapevoli che il progetto di ricerca ha un obiettivo ben specifico, cioè un impatto fondamentale. Certo, quello di migliorare e di trovare una cura per persone che sono malate. Certo. E quindi questo è molto, direi, motivante e stimolante a livello quotidiano. Certo. E come dicevamo anche prima della trasmissione, voi appunto, e tu in particolare, non hai nessun rapporto diretto con i pazienti, ma avendo la vostra sede presso l'Istituto Bordet, i pazienti anche li vedi continuamente, probabilmente ti rendi conto anche di questa realtà molto di più di chi invece sta in un luogo, diciamo così, asettico e non vede la sofferenza e il disagio di essere ammalati. Sì, direi che il contatto visivo, direi, quotidiano, sì. È sicuramente, ha un impatto molto forte, sì, psicologicamente, certo. È anche difficile, devo certo. dire, perché quando al mattina si va a lavorare e nell'ascensore si incontrano persone visibilmente sofferenti e malate, è triste, devo certo. dire. Però da un altro lato è stimolante, perché si pensa, beh, il mio lavoro serve, spero possa servire a qualcosa certo. di buono, insomma. E tu, Cecilia, invece ti occupi più di comunicazione, giusto? Sì, sono responsabile della comunicazione presso il BIG, quindi vuol dire tutto quella gestione dei contenuti del sito web, delle brochure che facciamo, ma anche di comunicazione verso i nostri membri. Diverse cose, insomma, è un lavoro molto variato, polivalente, e mi piace molto. Io non ho una formazione scientifica di base, sì. ma poco a poco ho dovuto imparare anche tutta la terminologia scientifica, e piano piano uno si fa, insomma, una formazione, e lo trovo molto, molto interessante. La lingua di lavoro comunque l'inglese, giusto? Sì, sì. Ufficialmente sì. Poi è vero che molti colleghi parlano francese, quindi però diciamo tra di noi sì, però ufficialmente tutti i contatti esterni con i nostri membri sono in inglese. Sì, quindi questo è un requisito sicuramente necessario per lavorare al Breast International Group. Perfetto, allora io direi di fare ancora un'altra pausa musicale, ci ritroviamo sempre fra pochissimi minuti, rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima e noi ci ritroviamo subito dopo questo brano di Giovanni Allevi. A dopo. Ed eccoci di nuovo in studio con I Colori dell'Anima, siamo già nella seconda metà della trasmissione di oggi. E vorremmo appunto completare e approfondire ancora di più questo argomento di oggi, che riguarda appunto questo gruppo internazionale che si occupa del coordinamento della ricerca contro il cancro. E ricordo ancora una volta che oggi è la giornata mondiale contro il cancro, oggi 4 febbraio, e già pensate, nell'87 sono state stilate 11 raccomandazioni, tra le quali non fumare, evitare l'obesità, eccetera, e una di queste appunto riguardava lo screening del tumore al seno per le donne oltre i 50 anni. Probabilmente oggi questo limite di età è stato anche abbassato, perché almeno si sente dire più spesso oltre i 40 anni. Quindi queste raccomandazioni sono dell'87, ma insomma, al di là di questo e al di là della prevenzione, che è sicuramente fondamentale, ci sono comunque molti studi in corso che riguardano invece il trattamento delle donne ammalate di tumore al seno, e in questo senso quindi il gruppo di cui ci stanno parlando Giovanna e Cecilia ha veramente intrapreso una grossa azione. Sì, io vorrei, finora abbiamo introdotto il gruppo, abbiamo parlato delle nostre ospiti, ma vorrei capire qualcosa da profana, vorrei capire qualcosa un pochino a livello tecnico di questa ricerca oncologica. Sì. Abbiamo detto prima che il tumore al seno colpisce una donna su 8 o 10, quindi una frequenza altissima, piuttosto alta. È veramente importante dunque per tutti, per veramente trovare delle terapie migliori, per migliorare le terapie contro questo tumore. Ed è quello che fa il BIG, questo gruppo di studi, che raggruppa tutti questi specialisti in oncologia, specificamente contro il tumore al seno, per veramente migliorare le terapie, ma anche in maniera duratura. Quando noi facciamo ricerca, l'obiettivo finale che abbiamo in testa è sempre il paziente. Quello che ci importa di più è la sua qualità di vita, come si può migliorare. E questa ricerca oncologica come parte, come viene suddivisa, come viene impostata? Forse è il caso di spiegare un po' perché che cos'è detto così, la ricerca oncologica, perché forse è il caso di spendere qualche parola per spiegare. Dunque, appunto, si può, diciamo, comporre di varie fasi. C'è una quella che si chiama la ricerca di base, quella che si fa in laboratorio, dove un ricercatore in laboratorio esamina vari processi che portano poi allo sviluppo del campo, cioè cerca di scoprire quali sono, perché nasce una cellula tumorale. E questo a livello, di laboratorio. La fase poi successiva è quella di capire come i risultati che si ottengono in un laboratorio vengono poi ritrovati o applicati al paziente stesso, e questo lo si fa anche mettendo a punto dei farmaci, dei trattamenti appunto per il tumore, grazie a diversi esperimenti che possono essere o in vitro o su cavie, quindi su animali. Poi c'è la fase successiva invece, che è la ricerca, quella che si chiama ricerca clinica, cioè è la sperimentazione di un farmaco o di un trattamento sull'essere umano, cioè su pazienti malati. Ed è questo che proprio cosa serve la sperimentazione sull'essere umano, è quello proprio di identificare la modalità e le dosi più efficaci che può avere un nuovo trattamento che è stato scoperto. Direttamente sul paziente. Sul paziente, esatto. Quindi diciamo che per trovare un nuovo trattamento a un farmaco il processo è molto lungo, perché si parte da una ricerca di base in laboratorio fino ad arrivare a uno studio clinico su pazienti. Quindi il processo è molto lungo. Scusami Giovanna, quindi immagino che questo processo, qui parliamo di studi in laboratorio, su pazienti, eccetera, quindi proprio perché siete un'organizzazione internazionale è possibile che sia fatto in paesi diversi. Certo. Certo. Quindi c'è anche un coordinamento a livello di informazioni. Informazioni fra i gruppi, e questa è la cosa veramente fondamentale, scambiare le informazioni. Cioè se un gruppo di ricerca in Spagna trova dei risultati interessanti, ovviamente l'importante è condividerli a livello internazionale, perché i benefici di questi risultati possono essere poi goduti anche da altri altrove, gruppi, altrove, oppure magari solo manca il tassello cosiddetto, esatto, tassello mancante che si va a prendere. O lo stesso progetto viene portato avanti attraverso una collaborazione tra diversi laboratori, per esempio in Europa o nel mondo. Quindi il Breast International Group si occupa della ultima fase della ricerca, cioè della sperimentazione sui pazienti, quello che appunto noi chiamiamo uno studio clinico. E forse vorrei magari, se va bene, spiegare un po' che cos'è uno studio clinico, perché probabilmente non tutti sanno che cos'è. È quello, appunto, uno studio condotto su persone che soffrono di una malattia, nel nostro caso il tumore al seno, e che serve a ottenere una migliore comprensione della causa della malattia e di come questa malattia evolve e di come può essere trattata. Quindi quello che vogliamo capire è perché nasce la malattia, come si evolve nel paziente e come la vogliamo trattare o curare, meglio dire. Quindi diciamo lo scopo, l'obiettivo principale è trovare la cura, ma anche cercare quindi di migliorare la vita del paziente. Uno studio clinico viene condotto, ci sono diciamo quattro fasi di studi. C'è lo studio di fase 1, che è la prima, diciamo, il primo passo che si fa, viene dove il farmaco nuovo che vogliamo testare, sperimentare, viene somministrato solo a un gruppo molto piccolo di persone che sono volontari, sani, quindi non sono persone malate, non sono affetti, sono, è un piccolo gruppo di persone che si che partecipano volontariamente e si testa, è una, veramente un testare in maniera preliminare l'efficacia e il fatto che non sia dannoso sull'uomo. Ovviamente, quindi fondamentalmente che non sia dannoso, perché se i pazienti non sono malati, esatto, che non sia dannoso. Ovviamente è già stato testato sugli animali, quindi già ovviamente non si somministra un farmaco che può avere degli rischi elevati, si sa già che funziona, che però comunque che potrebbe funzionare, esatto, ma comunque non comunque è nocivo, non è nocivo. Poi c'è lo studio di fase 2. Anche qui sempre un numero limitato di pazienti, però pazienti che soffrono della malattia in questione, quindi nel nostro caso di tumore al seno, e soprattutto sono pazienti che hanno la malattia in uno stadio avanzato, che molto si dice, molto spesso diciamo in fase metastatica, e lo scopo principale è quello di stabilire il dosaggio appropriato del farmaco, del nuovo farmaco, perché dobbiamo capire qual è il dosaggio che funziona meglio, cioè se è 50 mg, 100 mg, quindi il dosaggio. Nello studio di fase 3 il gruppo di pazienti è molto più ampio molto spesso si paragona il nuovo trattamento con un trattamento che già esiste, quindi un trattamento che noi chiamiamo standard. Ho capito, per vedere quale dei due è più efficace nel caso specifico. Esattamente. E vengono appunto studiate le eventuali reazioni avverse o di questo farmaco che viene appunto sperimentato. E poi c'è, diciamo, lo studio di fase 4, dove si valuta più il valore terapeutico ed eventuali effetti dannosi di un farmaco che è già eventualmente in commercio, quindi, ma che comunque si continua a studiarlo per vedere se eventualmente ci sono degli effetti. Si può creare degli effetti collaterali che non erano magari stati previsti. Esatto, o non visti nelle fasi precedenti. Quindi appunto, dunque, l'obiettivo principale dello studio clinico qual è? Direi sicuramente migliorare l'assistenza e le cure da offrire ai pazienti, ma anche di proprio capire meglio la malattia e quindi trovare dei trattamenti che sono migliori, che funzioneranno meglio e con meno, anche come diceva Giovanna, effetti avversi e con... per far godere i pazienti di migliore qualità di vita proprio. Sempre sul... Scusa. La mia domanda era in base a questo, cioè come vengono scelti, fra virgolette, questi pazienti che vogliono partecipare a questi studi clinici? Sono loro a proporsi? C'è qualcuno che glielo propone? Qual è la modalità per accedere, per far parte appunto di questa ricerca? Sì. È importante sapere che i pazienti che accedono agli studi sono tutti volontari. Quando si prepara uno studio ci sono dei determinati criteri di, diciamo, inclusione in questo studio, perché si vuole studiare un determinato tipo di tumore alla mammella, il paziente deve avere una certa età, per esempio deve avere già avuto, non so, per esempio un certo tipo di trattamenti. Sono tutti dei criteri che vengono predefiniti all'inizio, e se io fossi per esempio un paziente che corrisponde a questi criteri, io vado dal mio oncologo trattante, l'oncologo mi propone di entrare in uno studio e quindi mi dice: guardi, c'è questo studio che potrebbe farli bene per quest'altra ragione. Il paziente viene informato su tutto, sui rischi, su tutto il processo e alla fine prende una decisione volontaria. Forse è utile ricordare anche che il paziente può ritirarsi a ogni momento dello studio e che durante questi studi i pazienti sono seguiti. Sono sotto controllo costante, forse anche più di pazienti che non sono che non fanno parte di questi studi e vengono seguiti anche dopo lo studio per diversi anni per vedere quali sono gli effetti a lungo termine del farmaco testato. E vorrei fare anche un'altra domanda, ma chi stabilisce le regole di queste di questi studi, di queste ricerche? Perché immagino che ci siano delle regole che siano ben stabilite, insomma non penso che si improvvisi su questo tipo di cose. No, assolutamente no. Beh, innanzitutto bisogna dire che uno studio clinico viene fatto seguendo quello che si chiama protocollo scientifico, che è scritto da medici oncologi e che è praticamente descrive esattamente come bisogna eseguire e portare avanti uno studio clinico. Quindi viene seguito ogni oncologo quando appunto fa entrare dei suoi pazienti in uno studio deve seguire alla lettera quello che è il protocollo scientifico. Questo è importante ricordarlo. Sì, è molto importante. E un'altra cosa molto importante da dire è che lo studio e il protocollo scientifico viene approvato da commissioni etiche e da commissioni scientifiche indipendenti che valutano il protocollo e ne danno l'autorizzazione a portarlo avanti, a eseguirlo, a condurre questo studio, e vengono anche appunto è necessaria anche una autorizzazione delle autorità sanitarie statali. Quindi ogni paese che può avere le sue regole diverse. Esatto, perché ogni paese poi ha le sue regole diverse e quindi comunque è importante dire che appunto sono è necessaria un'autorizzazione a livello nazionale. E ok, allora mancano pochi minuti, però io propongo un piccolo brano musicale. Ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete all'ascolto dei Colori dell'Anima. Eccoci di nuovo qua. Io questa sera ho tolto la parola a Rosanna. Ah, che brava Anna Maria, grazie. Quindi ne approfitto di nuovo per chiedere ai nostri ospiti se ci vogliono fare un esempio di questi studi che sono stati fatti. Sì, dunque il Breast International Group ha attualmente più o meno 30 studi che sono in corso, ma forse uno di questi che è particolarmente significativo è lo studio che si chiama MINDACT. È uno studio dove partecipano intorno a, mi pare, 4.000 o 5.000 pazienti che partecipano da diversi paesi nel mondo e numerosi ospedali. E appunto è interessante perché in parole semplici, perché ovviamente uno così studio... Così posso capire anche io. Esatto, cerco di spiegarvi un po' come... L'idea è che grazie a delle nuove tecnologie... si possa arrivare, cioè queste tecnologie sono utilizzate per capire quali siano le pazienti che possono veramente trarre beneficio dalla chemioterapia. La chemioterapia sappiamo tutti che è un trattamento che comporta degli effetti collaterali che sono piuttosto dolorosi e fastidiosi. Quindi grazie a queste nuove tecnologie alcune pazienti possono essere... risparmiate da, esatto, diciamo. Non vengono sottoposte a chemioterapia, ecco, a sofferenze che non sarebbero poi così utili, sì, ecco, esatto. Questo vogliamo cioè, dire si riesce a capire come alcune pazienti non avrebbero alcun beneficio dalla chemioterapia, ecco, questo è importante, sì, sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista economico. Perché ovviamente delle sedute di chemioterapia a livello economico sono impegnative. Quindi, sì. Esatto, quindi diciamo c'è un beneficio ovviamente principalmente medico e scientifico, ma c'è anche un beneficio economico, insomma. E questo è uno studio che è stato parzialmente finanziato grazie alla Commissione europea nell'ambito del sesto programma quadro. Bene, ne andiamo fieri. Bene. Esatto. Sì, quindi insomma abbiamo dato un esempio concreto, ma anche per dimostrare che l'innovazione, diciamo, le novità non sono soltanto trovare dei farmaci nuovi, ma anche appunto trovare un modo più appropriato di utilizzare un farmaco esistente. E poi appunto l'avete già detto, ma insomma vorrei ribadirlo, che naturalmente questi studi sono sottoposti a comitati etici, all'approvazione di comitati etici, che quindi servono a garantire che ogni paziente, in questo caso ogni paziente donna, abbia il miglior trattamento possibile, quindi è ovvio che queste donne non sono delle cavie, ma che invece sulle quali vengono provate, comunque vengono utilizzati dei farmaci di cui è, così è stata sperimentata l'efficacia e sicuramente la non tossicità. Esattamente. Come sì. Hai spiegato tu prima, Giovanna. Certo. Esattamente, è sicuramente anche importante ribadire il fatto che chi partecipa a uno studio non è forzato a partecipare, certo, è certo. Assolutamente una scelta personale e ovviamente guidata da un medico e quindi è importante appunto che la paziente è assolutamente libera di scegliere certo. Se partecipare o meno. Va bene, allora io vi ringrazio moltissimo, ci avete così dato un sacco di informazioni sul vostro coordinamento nel campo della ricerca contro il tumore al seno, quindi ringrazio Cecilia. Grazie. Buonasera, buonasera, grazie a Giovanna. Grazie a voi di averci invitato e buonasera a tutti. Grazie ad Anna Maria. Grazie a voi, ma dimentichiamo un particolare piccolo piccolo. Che colore diamo alla trasmissione? È vero, che colore diamo? Rosa direi, ecco, sì, rosa. Il colore rosa perché è il colore della lotta contro il tumore al seno. Grazie Anna Maria, vedi questo era un particolare molto importante di cui ci eravamo dimenticati. Ci chiamiamo i colori dell'anima del certo, resto. Certo, e allora buonasera a tutte, buonasera. Buonasera. Buonasera da me Rosanna e naturalmente rimanete con Radio Alma e a lunedì prossimo con I colori dell'anima.